Bene, ore 12 in punto al secondo, sempre qui a Red Onda Rossa. Allora, iniziamo oggi sulla questione ATAC, in studio con Micaela Quintavalle, sto splendendo cane accanto. Buongiorno. Cioè, che sicuramente avrà anche il cane a dire più delle da dirigenza dell'ATAC. Ops, non è scappato. Scappato pure questo, però insomma, naturalmente invitiamo a chiamare, insomma, per intervenire allo 06 49 17 50. Vi mandiamo subito in onda, naturalmente senza censure mai fatte da questa radio, però naturalmente attenti a cosa dite. Allora, argomento di oggi, noi abbiamo passato, insomma, questo mese a capire, ad inchiestare, insomma, quali sono i problemi della condizione lavorativa degli autisti, degli operai, insomma, dei macchinisti dell'ATAC. Ora cerchiamo di andare, insomma, a capire quello che succederà in questa prossima settimana e da qui al mese che viene, perché appunto, insomma, abbiamo passato questo mese, insomma, dopo lo sciopero bianco, insomma, il blocco degli straordinari di novembre, eccetera. Abbiamo capito, insomma, quello che succede dentro l'ATAC, insomma, si è lavorato nel silenzio anche, insomma, di un conflitto aperto, si è lavorato per costituire l'associazione auto-organizzata dei lavoratori che ha proposto Micaela dal nome Cambiamenti M410. Cominciamo a presentare, insomma, a discutere di quelle che saranno le prossime mosse da qui a qualche settimana per ritornare, insomma, a operare, insomma, la protesta, la manifestazione, i cortei, il conflitto, insomma, per avere in mano quello che spetta ai lavoratori e quello che spetta agli utenti. Allora, le date le lancio subito, poi ne parliamo bene. Insomma, il 16 ci sarà la vostra assemblea con la partecipazione di delegazioni nazionali, poi sì. Il 20 di dicembre ci sarà un corteo cittadino, poi ne parleremo meglio, insomma, in seguito, un corteo cittadino fra lavoratori ed utenti che partirà dal Colosseo alle ore 17, e il 20 di gennaio, insomma, si è lavorato a costruire una giornata di mobilitazione nazionale di tutti gli autoferrotranvieri d'Italia. Ora, sì. Michele, insomma, io ti lascio la parola, insomma, per capire questa settimana pure che cosa è successo, insomma, poi arriveremo con le date in maniera cronologica. Sì. Allora, sicuramente noi abbiamo lunedì questa nostra assemblea dove presenteremo la bozza dello statuto, per cui, insomma, dal concepimento ci avviciniamo alla nascita di questa associazione che prende il nome proprio di Cambiamenti M410. Dovremo parlare di varie cose, sicuramente anche della nostra forma di protesta che avverrà dal 17 al 24 di dicembre. Ora, noi non lo chiamiamo assolutamente uno sciopero, noi ci limiteremo a garantire il lavoro ordinario e a rispettare alla lettera il codice della strada, cosa che purtroppo a Roma non possiamo mai fare, quindi andiamo contro le regole quotidianamente. Lo faremo invece in questa settimana di protesta. Naturalmente abbiamo ristretto il raggio d'azione, in quanto prima l'avremmo voluto fare in tutta la città, poi alcuni colleghi mi hanno giustamente fatto notare che comunque in zone un po' più delicate, mi viene in mente Torbella Monaca, Laurentino 38, anche se sicuramente ci sono persone bravissime anche in queste zone. Vabbè, però come accento c'era ovunque, perfetto, insomma, in periferia. Però poteva essere messa a rischio l'incolumità dei colleghi, quindi comunque la faremo solamente in centro. Una cosa molto vergognosa che sta facendo l'azienda in questi giorni e che io vorrei denunciare è il fatto che noi abbiamo ricevuto 1800 rapporti disciplinari, 1800 rapporti che non hanno assolutamente veramente motivo di esistere, perché dal 4 al 10 di novembre i colleghi si sono limitati, rispettando le direttive aziendali, quindi di scoprire lo straordinario con 24 ore di anticipo, cosa che secondo me è illegale anche questa, perché comunque uno straordinario potrebbe essere cancellato, annullato anche 2 ore prima. Invece noi abbiamo rispettato le direttive aziendali e sono arrivati 1800 rapporti. Allora, innanzitutto noi diciamo che da gennaio chi vorrà, io in primis, ci iscriveremo tutti al turno dello straordinario, così che se devono arrivare i rapporti non arriveranno solamente a coloro che sono in prima linea, ma a tutti i colleghi che sono, diciamo, operatori di esercizio. La cosa molto grave però è che l'azienda ha messo le persone che per tutelarsi si sono cancellate dal quadro fisso degli straordinari, ha messo queste persone in una blacklist, potremmo chiamarla, per cui i colleghi che prima quotidianamente avrebbero potuto prendere lo straordinario oggi non possono farlo, vengono ricattati, vengono minacciati del fatto che se non si iscrivono di nuovo al quadro fisso degli straordinari non riceveranno il turno straordinario. Che cosa significa questo? Che tutti gli utenti stanno pagando uno scotto molto alto, perché comunque ieri per esempio c'erano 7, 8, 9 vetture ferme al capolinea di Laurentina, ma è avvenuto in tanti altri capolinea, perché appunto l'azienda non ci permette di fare lo straordinario. Ora noi faremo sicuramente la stessa cosa nella settimana dal 17 al 24, ma noi chiediamo assolutamente scusa ai cittadini, perché questa settimana ci servirà per mettere in luce ancora una volta la carenza d'organico di personale viaggiante. Diciamo che noi avevamo minacciato questa cosa già 2 mesi fa, chiedendo un incontro con Marino. Io sono stata rintracciata da Improta, insomma l'assessore è venuto proprio all'università dicendomi: Quinta Valle, sicuramente noi vi vogliamo aiutare, ma non è che le richieste che fai tu sono risolvibili in 2 mesi, in 20 giorni. E io sono assolutamente d'accordo con l'assessore, gli avevo chiesto però di darci un segnale, invece Marino si è assolutamente negato ad una dialettica con noi. E gli interinali, che veramente potrebbero essere assunti immediatamente perché sono pronti, sono formati, l'azienda li utilizza d'estate per poter mandare noi 10 giorni in ferie, cosa che è illegale perché la legge prevede 15 giorni di ferie annue scelte dall'azienda e 15 giorni di ferie invernali scelte dal lavoratore, mentre noi non abbiamo niente di tutto questo. Noi abbiamo 10 giorni in estate e ai più fortunati ne hanno 5 sotto Natale, ma assolutamente non abbiamo mai 15 giorni. Ecco perché abbiamo delle ferie arretrate 70, 80, 90 giorni di ferie. Assumere gli interinali significherebbe dare un lavoro a delle persone che hanno figli, che hanno una famiglia, quindi assolutamente un segnale non è stato dato. A tutti coloro che mi dicono perché, anche gli utenti nelle varie radio, perché ve ne siete usciti con questa protesta proprio sotto l'amministrazione di Marino, perché volete colpire Marino, allora al di là di quelle che possano essere le mie idee politiche come libera cittadina, io sono la rappresentante di un gruppo di lavoratori, la nostra associazione è assolutamente asindacale e apartitica. Il fatto che sia venuta fuori Sottomarino, ma non è vero niente, perché all'interno dell'ATAC c'è un gruppo di ragazzi che sono assolutamente molto più preparati di me, i quali cercano di combattere questo sistema da 3 o 4 anni. Il fatto che adesso sia diventato così manifesto è semplicemente perché il periodo storico era particolare, tanti colleghi erano assolutamente delusi dal comportamento sindacale. Aggiungiamo che ai media è piaciuta la favoletta di questa studentessa lavoratrice ed ecco che è venuto fuori sotto l'amministrazione di Marino, ma non è assolutamente un attacco a Marino, cioè un attacco ad un sistema corrotto che comunque non... Comunque ricordiamo che Marino è comunque sempre il sindaco di una città, a prescindere dalla, perfetto. Dallo schieramento politico, c'è un problema istituzionale di dirigenza dell'azienda di trasporti, insomma. Perfetto, io sono andata poi ad una riunione l'altro ieri, mi sembra, mi ha fatto veramente piacere, perché veramente io sono rimasta basita, sconvolta dal trovare delle persone studenti, disoccupati, lavoratori che davano la loro disponibilità per aiutarci. Cioè, questa cosa mi ha lasciato sconvolta. Cioè, questi ragazzi con i quali io parteciperò, insomma, alla manifestazione del 20 di dicembre, che non è delle dimensioni di quella del 20 gennaio, ma secondo me è molto importante proprio per unire i lavoratori e i cittadini, questi ragazzi si sono offerti di andare ai capolinea durante quella settimana di fuoco e di spiegare alle persone, agli utenti che comunque non sempre riusciranno a capire, il perché di questa protesta. E la cosa fondamentale è che la protesta viene fatta in primis per gli utenti. Noi, prima di essere autisti, prima di essere macchinisti, prima di essere lavoratori, siamo fruitori dei mezzi pubblici, e non è possibile che il trasporto pubblico di Roma, che è la capitale d'Italia, abbia questo tipo di servizio che è assolutamente scadente, insomma. No, appunto, questo, andiamo subito, insomma, nel piatto della manifestazione del 20. È stata preparata da una parte, insomma, di quello che il Movimento Romano, ma più che altro con una firma, insomma, con una sigla che è eloquente rispetto alle caratteristiche della problematica che Michela metteva sul campo, insomma, la firma è questa: lavoratori ed utenti ATAC contro le privatizzazioni per diritto alla mobilità. Questo perché, appunto, oltre naturalmente alla solidarietà ai lavoratori, insomma, che ricordava prima Michela, c'è un elemento essenziale, insomma, la partecipazione degli utenti alla protesta. Cioè, quindi, da un ruolo passivo ad un ruolo attivo su questa vicenda, su questa mobilitazione, perché mettiamo in chiaro, insomma, quello che è la problematica: l'uso dei mezzi pubblici è un uso che si fa, diciamo, quotidianamente, non per andare in giro a fare shopping, ma per andare a lavorare tutti i giorni, e, insomma, si è stanchi, ormai, insomma, la cittadinanza romana è stanca di un sistema dei trasporti che funziona male, che funziona poco, e quindi vogliamo, insieme ai lavoratori, cercare di trasformare, incidere, insomma, su quello che è il sistema di mobilità a Roma. Ricordiamo, la mobilità è uno dei diritti, diciamo, come la salute, come lo studio, insomma, che se mancano, diciamo, incidono sulla vita quotidiana di tutti e tutte. Quindi partecipare a questo è importante, partecipare adesso, cioè farla adesso. Perché? Perché, insomma, dopo le ondate di scioperi, di proteste, di cortei e manifestazioni in giro per l'Italia, da Genova a Firenze, a Livorno, a Pisa, a Padova, ricordiamo anche è arrivato oggi un altro comunicato dell'azienda di trasporto regionale della regione Abruzzo, che insieme a comitati di utenti formati da chi aveva promosso il referendum sull'acqua, che ricordiamo, perfetto, quel referendum conteneva all'interno una clausola poi vinta dal referendum e mai rispettata, che è quella contro la privatizzazione dei servizi pubblici, anche in Abruzzo si mobiliteranno questa settimana. Quindi in tutta Italia c'è questa cosa qua. Noi a Roma, prima del corteo nazionale, pensavamo, insomma, che sia d'obbligo aprire anche a Roma una questione vertenziale, per poi arrivare ad un corteo nazionale come arrivano anche le altre città, insomma, con vertenze aperte, con tavoli aperti, insomma, con una mobilitazione aperta, perché poi, insomma, un corteo nazionale serve più che altro a rilanciare questi tavoli qua, per ritornare nella quotidianità con una lotta già aperta, avanzata. Quindi il 20 di dicembre dal Colosseo al Campidoglio, appunto sotto all'amministrazione comunale, per mettere questi punti in chiaro con una piattaforma, diciamo, precisa, che mette insieme i punti vertenziali dei lavoratori sugli straordinari, sull'assenzione, sugli interinali, su tutto quel sistema marce, insomma, che sta dentro all'ATAC. Infatti chiediamo subito l'azzeramento dei vertici aziendali, chiediamo subito un sistema di welfare, insomma, che riesca a garantire l'accesso reale a chi i mezzi pubblici li usa, perché ricordiamo che nei mezzi pubblici alla fine troviamo le fasce più povere di questa città, gli studenti, gli immigrati, le donne, eccetera, che sono quelli che dovrebbero usufruire maggiormente. Assolutamente. Guarda, se posso dire una cosa, io, perché abbiamo sempre parlato delle problematiche degli autisti, io oggi vorrei spendere due parole sulle problematiche dei macchinisti, che sicuramente sono sempre stati un po' in disparte, perché l'azienda sa bene che, pur essendo un numero sicuramente più esiguo, essendo molto più uniti, possono comunque creare grandi problemi, quindi li hanno sicuramente tutelati di più. Però lo spettro della privatizzazione è arrivato anche da loro, quindi anche loro hanno tutto l'interesse di unirsi a questa forma di protesta. Qual è la situazione dei macchinisti? La situazione è assolutamente critica su tutti i settori interni al deposito. Innanzitutto, il personale di macchina deve coprire 75 turni giornalieri e loro hanno 45 presenze, quindi comunque anche lì abbiamo una carenza di personale impressionante. Tutto il resto del servizio viene coperto a straordinario. I mezzi su cui lavorano sono fatiscenti, parliamo di mezzi del 1925. Io ci sono andata domenica scorsa, ricordavo da bambina che fossero bianchi e blu, invece erano gialli e bianchi, ma solo perché erano stati riverniciati. E appunto non ci sono minimamente la sicurezza per i viaggiatori, cioè per salire bisogna fare uno scalino molto alto, gli utenti più anziani sono impossibilitati. Ho chiesto al guidatore di farmi vedere in quanto spazio il treno avrebbe potuto arrestarsi. Diciamo che la formuletta fisica la sappiamo tutti: velocità uguale spazio fratto tempo. Io mi sono spaventata perché lì le rotaie non sono protette, la gente attraversa, e veramente questi ragazzi, questi lavoratori rischiano di uccidere una persona ogni giorno. Quindi sicuramente guadagneranno più di noi, hanno responsabilità molto più grandi di noi e sono una categoria che va assolutamente tutelata e difesa, e appunto che si sta unendo a noi per il pericolo della privatizzazione. Allora, abbiamo una chiamata. Pronto? Sì, pronto. No, volevo informare che, sempre in quest'ambito, in questi temi, domani al Qatar Alba 2 ci sarà praticamente un incontro, un'assemblea, l'occasione è volete parlare di questa ipotesi di tranvia leggera che un progetto che doveva partire da Saxa Rubra a Laurentina, che era una cosa che fatta qualche anno fa con una petizione popolare per affrontare questo problema della mobilità, eccetera. Ora questa petizione popolare addirittura è stata approvata all'Assemblea Capitolina, tutto quanto, eccetera. Però se ne sono perse le tracce. Ora noi non è che crediamo che il Consiglieri De Luna mettere in testa di fare una cosa del genere, però era l'occasione per riportare questo discorso della mobilità, dei mezzi pubblici, della mobilità diversa, di questa zona. E quindi partecipano associazione pedoni, partecipano quelli che hanno proposto questa cosa, una serie di associazioni, e noi siamo qui nella zona delle Bibbia, che è un gran casino per quanto riguarda la mobilità, perché le frequenze degli autobus sono una cosa praticamente impossibile spostarsi, salva la metro B, che pure quella è bella disastrata. Comunque era l'occasione per riparlarne, di affrontare un discorso nel nostro settore. Da quanto so, abbiamo invitato anche qualcuno del comitato dell'ATAC, non so se poi verrà. Comunque la informativa domani alle 4:30, c'è questa cosa qua, e poi ci rendiamo disponibili per questa per propagandare, per diffondere questa cosa del 20, quindi se magari poi ci stanno qualche regali anche nelle per potesse prendere i volantini, il materiale da poter diffondere, magari se lo dite, così almeno Facciamo un po' di propaganda, cioè facciamo un po' di informazione su questo. Assolutamente sì, Peppe. Poi naturalmente ci saranno, c'è è già uscito ieri un comunicato che sta cominciando a viaggiare, quello può essere il volantino, diciamo, comune per tutta Roma, insomma, per far circolare, insomma, organizzare qualche volantinaggio alla esattamente metro, qualcosa del genere. Così purtroppo abbiamo bucato la riunione che c'era l'altro ieri, esattamente, però insomma c'è tempo per poter agire. Siamo qua, vabbè, comunque per qualcuno se lo fa vedere domani, insomma, ci fa piacere. Grazie, ciao, ciao. Proprio una mobilitazione che è proprio generale, anche davanti alla metro San Paolo ci sono dei ragazzi, delle pulizie. No, tra l'altro, appunto, ricordiamo questo che è importante. Poi spero che ci chiameranno, insomma, i macchinisti della Roma Lido, che abbiamo già ascoltato. Spero tanto. Per raccontarci questa cosa che è importante. Ah sì, sì, tutto quello che era successo, certo, me lo auguro fortemente, insomma, la parola a loro, questo ci mancherebbe. Ecco, c'è un altro ascoltatore, ora vediamo, eccolo. Allora, abbiamo un'altra chiamata, pronto? Ciao Dario, buongiorno, aspetta che abbasso la radio. Vai. Eccoci. Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno Michela. Ciao, ciao, Ilaria, credo. Eccoci, okay. Eccoci, pronte. Ciao. Si parla di personale viaggiante, io mi infilo. Perfetto. Allora, intanto volevo, vabbè, forse tu hai fatto qualche precisazione, magari più in merito alla Giardinetti, diciamo, noi del comparto. Ah sì, sì, certo, io avevo queste informazioni, infatti certo, felice certo che voi possiate integrare con altre linee, insomma. No, no, grazie, anche perché ovviamente noi siamo, diciamo, il comparto ex metro, noi prima della fusione ci chiamavamo Metro S.p.A. Certo. E siamo circa 500. Si parla di macchinisti e capotreni per quanto riguarda la Viterbo e la Roma Lido, e macchinisti per la metro A, la metro B e la Roma Pantano. E come avete evidenziato, più o meno la categoria e le problematiche sono le stesse, perché comunque le grandi assunzioni di Parentopoli, i famosi 850, hanno bloccato le assunzioni e il rinnovo per tutte le categorie, quindi anche noi ci ritroviamo a lavorare in marcatissimo sovrannumero e in sottonumero, scusami. Certo. E quindi niente, i problemi sono comuni di categoria, quindi le ferie non godute, il mancato recupero psicofisico, noi lo sottolineiamo sempre, intanto che con i livelli di disoccupazione esterno, il fatto che noi ci dobbiamo rifiutare di fare straordinario per poter campare la vita nostra è una cosa veramente assurda, cioè c'è una città in crisi, un paese in crisi, e noi comunque veniamo praticamente costretti a superare di moltissime ore quello che è il nostro livello. Poi comunque ricordiamo che sia noi che voi, insomma, conduciamo dei mezzi pesanti che necessitano voi molto più di noi, cioè, assolutamente, assolutamente. Ecco. Anche perché poi ovviamente i livelli salariali, come hai detto tu, i nostri sono un pochino più alti, perché magari insomma è una tipologia di lavoro diverso, però ma è totalmente diverso, è come che diciamo che un pilota d'aereo, insomma, non può guadagnare quanto un pilota d'elicottero, no, io penso sia. Per carità, poi voglio dire, anche lì se ne potrebbe parlare, perché il fatto che chi lavora in metro a 6 ore in galleria senza luce, certo, gli viene monetizzato, il fatto che comunque perda la vista un po' per dell'udito, se ne potrebbe parlare sempre in termini di qualità della vita. Più che altro, ecco, ad esempio, quello che dicevate voi anche in altre puntate, che comunque con tutti questi sperperi, i super minimi, i dirigenti strapagati, poi alla fine sono un po' sempre le manutenzioni, lo stato dei materiali che ne vanno a risentire. Io ad esempio ricordo il caso della mia linea, che è la Roma Lido, in cui due colleghi hanno ricevuto un avviso di garanzia qualche settimana fa, sì, perché per la mancanza di protezione si sono ritrovati una persona in mezzo ai binari, non hanno fatto in tempo a fermarsi, perché ovviamente lo spazio di fermata del treno è qualcosa di, insomma, e questi due colleghi si ritrovano appunto un'indagine per omicidio colposo. Mamma insomma mia. Noi pretendiamo solamente di vivere in maniera onesta e dignitosa, ecco. Come hai ricordato tu, peraltro, in questi giorni noi abbiamo fuori a Piramide l'accampamento dei colleghi delle pulizie, che sono ancora in stato di agitazione perché non ricevono gli stipendi, peraltro pure bellissimo, quelli non sono stati ricevuti, si parlava forse, dicono tra oggi e lunedì qualcuno li convocherà, però insomma sono famiglie e famiglie che non ricevono stipendio sotto Natale, insomma. Senti Ilaria, no, ci puoi fare un punto, io approfitto di te, un punto sì, anche no, su di loro, insomma, perché ne stavamo cominciando a parlare, però visto che ci siete tutti lasciamo la parola, insomma, su questo, insomma, andarci a spiegare anche la loro protesta che fa parte dell'azienda ATAC, insomma. La loro protesta sì, si inserisce sempre nello stesso quadro, dunque parliamo dei lavoratori che effettuano le pulizie sopra i treni e nelle stazioni, parliamo sempre appunto di tutte le metropolitane e tutte le ferrovie concesse, quindi insomma un numero di lavoratori veramente veramente numeroso. E questi ragazzi fanno parte di una cooperativa il cui nome io, guarda, neanche mi ricordo, perché praticamente questa cooperativa che fa? Ogni anno dichiara fallimento, licenzia tutti e poi riassume tutti, di modo che ogni volta risparmiano tutta una serie di contingenze, certo, e spese. Sì. Il TFR, l'anzianità, è come se ripartissero sempre da... Esatto, ma sono sempre gli stessi lavoratori, voglio dire, cioè chi sta in azienda da 20 anni, chi li conosce ormai tutti nome per nome, perché tanto sono sempre le stesse persone che svolgono comunque un lavoraccio alle prese con l'ATAC, che se prima faceva... come dire, i pagamenti in maniera piuttosto regolare, ora comunque tra deficit e default c'ha quasi la scusa, fa pagamenti a 6 mesi, e tante ditte e dittarelle che eseguivano e eseguono lavorazioni non solo per le pulizie, ma anche banalmente le lavorazioni, che ne so, la manutenzione del verde, una serie di cose, ci sono ditte che hanno chiuso perché comunque aspettare i pagamenti dell'ATAC sono fallite. Quindi anche lì il default dell'ATAC, ovviamente programmato, come diciamo da anni, veramente il default dell'ATAC programmato scientificamente, ha fatto sì che questa ditta delle pulizie è una delle tante ditte che svolgono lavorazioni in appalto ad ATAC che non, ai quali non viene saldato il capitolato. Allora ad esempio con loro avevano concordato praticamente una specie di cassa di solidarietà, di cassa di solidarietà, praticamente a rotazione si riduceva l'orario di lavoro del 50%, ma comunque pensavano di obbligare i lavoratori a mantenere lo stesso numero di ore, lo stesso numero di lavorazioni, quindi praticamente una volta si diceva lavorare di meno a parità di salario, questi no, praticamente li fanno lavorare doppio e senza salario, perché poi comunque sono mesi e mesi che loro non percepiscono. Hanno fatto qualche mese dei tira e molla nei quali alla fine lottando lo stipendio sono riusciti ad averlo, e mo invece sono 3 giorni che stanno con la tenda fuori a Piramide, hanno occupato i binari l'altro giorno cercando di attirare l'attenzione su di loro, perché poi, come diceva Micaela, è vero, noi magari che facciamo i macchinisti capotreni facciamo un lavoro che se ci incazziamo e ci fermiamo la città se ne accorge, loro invece fanno parte magari di questo esercito di lavoratori onesti e professionali che fanno lavori che si fa finta di non vedere, ma ecco, cioè io ho visto stamattina al lavoro e le stazioni erano ricoperte di monnezza, cioè è una cosa invivibile, insomma, e poco dignitosa, e nei confronti di chi non prende lo stipendio e di chi comunque vorrebbe usufruire del servizio decente, insomma è sempre il solito discorso che il diritto alla mobilità sarebbe anche questo. Va bene Ilaria, grazie. Allora noi naturalmente rilanciamo appunto anche con te la manifestazione del 20 di dicembre, certo, e quella del 20 di gennaio. Ti ringraziamo, insomma, e ci rivediamo in piazza. D'accordo, grazie mille, buona giornata. Ciao. Ciao, ciao. No, una cosa molto interessante che diceva lei, poi va bene, lei è grandiosa secondo me, lei parlava ecco di questo recupero psicofisico. Allora per quanto riguarda la nostra situazione, io vorrei denunciare un'altra cosa vergognosa che ha fatto l'azienda e un'altra cosa vergognosa che i sindacati in maniera poco incisiva o completamente inesistente hanno avallato, nel senso che già da dicembre del dello scorso anno e lo stanno riproponendo quest'anno, noi abbiamo un aumento di 100 euro lorde qualora nel mese di dicembre non prendiamo giorni di malattia, non facciamo una donazione sangue, non prendiamo la legge 104. Allora, agli utenti, che giustamente loro non comprendono, che mi dicono però Micaela, questo è un modo per non permettere alle persone di prendere la malattia anche se non stanno male, ma io rispondo: signora, ma se noi avessimo le ferie sicuramente non prenderemmo la malattia quando non stiamo male, cosa che comunque è opinabile, cosa che non è certa. Il fatto di pretendere che una persona vada a lavorare quando magari sta male è gravissima. Perché questo? Perché qui ci sono tanti padri di famiglia che veramente non arrivano a fine mese, che pur di prendere quei 100 euro di stipendio in più vanno a lavorare con la febbre, quindi nessuna sicurezza per gli utenti. Oppure non prendono la 104. Avere la 104 non è una fortuna, avere la 104 è una cosa maledettamente seria. Si tratta di avere un parente stretto che ha una disabilità grave e totale, quindi non andiamo a dire che la 104, perché magari c'è stato un caso di quello che ha preso la 104 a Natale per andare con gli amici, non andiamo a dire che la 104 è un privilegio. Io sono stracontenta di non avere la 104 o la donazione sangue. Noi abbiamo dei problemi importanti nel Lazio, a Roma la donazione sangue è un'opera sociale fondamentale per gli ospedali, e facendo così si dice ai lavoratori di non andare a donare il sangue che invece serve terribilmente ai malati. Quindi questa è una cosa vergognosa, e per quanto mi riguarda noi dovremmo denunciare non l'ATAC ma le singole persone che mettono la firma sotto queste disposizioni. Allora, abbiamo un'altra chiamata. Pronto? Pronto? Sì, sei in onda. Ah, grazie. Senta, un abbraccio alla Quinta Valle, sono un collega di Tor Vergata. Oh, salve, salve. Ciao. Buongiorno. Senti un po', volevo correggerti per quanto riguarda gli straordinari. Non esiste una blacklist, esiste il fatto che loro hanno detto che chi è segnato bene lo può fare, chi non è segnato, gli straordinari... Sì, sì, blacklist nel senso questo. Insomma. Cioè, non esiste il fatto che solo un gruppo di autisti che non lo può fare. Io non l'ho mai fatto, cioè l'ho fatto tempi passati, sono 26 anni che sto in azienda. Adesso non sono segnato agli straordinari, però volendo, se io domani vado lì e voglio fare lo straordinario, anche io non lo posso fare. Certo, cioè, certo. Lo stanno negando a tutti noi autisti. Allora io mi faccio una domanda, mi chiedo, ma è una cosa lecita questa? Cioè, lo possono fare? Questo non è interruzione di pubblico servizio, non è una cosa... Cioè, il sindaco dove sta? È scollegato totalmente dai vertici aziendali. Cioè, questi sono i vertici, quale persona? Guarda, quale io decide? No, non credo nel senso che comunque sicuramente stanno facendo il male della cittadinanza, perché un conto è che parte una protesta dal basso degli autisti come forma appunto di far luce su alcune problematiche, loro stanno facendo una cosa gravissima per i cittadini, e non è intervenuto nessuno. Ma io la penso come te, cioè questi stanno facendo dei ricatti assurdi. Allora io dico, il sindaco, ma queste cose qua le sa, è a conoscenza di queste cose? I vertici aziendali, io parlo dei vertici aziendali, ma dovrebbe essere un nome e cognome che ha fatto un'assurdità del genere e denunciarlo. Io sono d'accordo con te, denunciare proprio la persona della disposizione. Scusa, ma quando parte un ordine di servizio, una disposizione, non è firmata da qualcuno? Questo qualcuno, questo imbecille, perché giusto un imbecille può essere a fare una cosa del genere, si assume la responsabilità, non può essere denunciato da un magistrato. Fare una denuncia ai carabinieri e digli che per colpa di questo signore non ci sono i mezzi che girano per la città. Ci stiamo muovendo, insomma, poi la magistratura, insomma, i carabinieri faranno quello che dovranno. Ma però io sono assolutamente... Appena uno di noi fa qualcosa che non va a parte nei rapporti disciplinari, fanno una cosa del genere assurda, che neanche ai tempi di Hitler si potevano fare. Comunque guarda, io l'ho denunciato a tutti i giornali, anche oggi il Tempo ha fatto un bell'articolo su questa cosa, quindi noi la stiamo dicendo, poi se vogliono leggere e vogliono risolvere i problemi possono farlo. Noi, grazie ai media, grazie alle radio, alle televisioni non più, perché ci hanno ricercato ieri da Piazza Pulita, e io mi sono elegantemente defilata perché non vogliamo più essere strumentalizzati. Sì, pure perché ho però assolutamente stiamo porta a porta, dove hanno fatto le peggio schifezze lì, proprio porta a porta. Hanno fatto parlare persone che non sanno assolutamente niente dell'ATAC e parlano, ma mi dici di che cazzo parlate? Fatemi capire che voi non siete a conoscenza delle problematiche dell'ATAC, è quella la rabbia. Lo sanno loro che noi non andiamo in ferie, tu l'hai detto più volte, tante, tante volte, ma qui non entra in testa. Cioè qui si, alla fine si vive per lavorare, non si lavora per vivere, all'ADAC parlo. Però questo riguarda solo neuristi, perché per tutto il resto, le vacanze per quanto riguarda Natale, Capodanno, se le fanno in famiglia. E noi non ci abbiamo un giorno per andare in ferie. Cioè, ma io non lo so, cioè siamo arrivati proprio all'assurdità. E parlo di questa problematica, perché di problematiche ce ne stanno altri milioni di problematiche per quanto riguarda l'ADAC. Cioè uno va, lavora, già con l'ansia, quando uno va a lavorare con l'ansia. Io non lo so, cioè io ci avrei 8 milioni di cose da dire, però mi limito a questo. Cerchiamo di fare una denuncia a questo signore, che io non so come si chiama. Come si chiama questo signore? Assolutamente non mi sembra a caso di dirlo. Facciamo un passetto per volta. Ma vediamo sì, ma cominciamo a denunciare la persona che con lavoro certosino ha messo 1800 firme su rapporti inesistenti. Cominciamo a denunciare le persone. Vedrete che quando poi ai vertici gli verrà detto metti la firma, il tizio ci ripensa perché si ritrova 1800 denunce. Ragazzi, dobbiamo stare insieme, dobbiamo essere uniti. Se noi stiamo insieme non potranno fare niente. Finché continueremo ad avere paura non sarà possibile risolvere le cose. Ascolta Michela, io ti ringrazio perché da 26 anni a questa parte non ho mai visto una cosa del genere. Sei una grande, perché manco a dirlo, queste cose qua le sanno tutti, non so il resto, i chiacchiere stanno a zero. Però io cerco di andare a piccoli passi. Piccoli passi significa, allora, prima di tutto sapere chi è questa persona o gruppo di persone che si permette di fare una cosa del genere e vedere se è una cosa lecita. Iniziamo da questo. Poi un passo per volta si fanno altre cose. Scusa se mi sono arrabbiato. Grazie. Ti ringrazio. Grazie a te. Ciao. Bene, insomma, è chiaro che questa questione della blacklist, che poi è comunque il divieto di fare gli straordinari per chi non li ha presi entro un certo tempo. Cosa è successo, Dario? È successo che l'azienda è convinta di avere dei dipendenti conigli, cioè tutti gli autoferrotranvieri fino a qualche tempo fa erano assolutamente persone impaurite. Che cosa è successo? Nel momento in cui è uscita questa disposizione, l'azienda si aspettava che subito tutti si sarebbero iscritti al quadro fisso degli straordinari, perché l'azienda deve avere le garanzie, deve avere delle certezze. L'azienda è troppo comodo coprire il servizio con il lavoro straordinario, quello che diceva il collega. Qui io ho visto le turnazioni delle aziende private, cioè qui ci vogliono portare a guadagnare meno soldi e a fare più ore, ma non dobbiamo soddisfare solo i bisogni, colleghi. Questa è psichiatria, i bisogni sono mangiare, bere e dormire, cose legate assolutamente alla sopravvivenza, ma un essere umano dovrebbe avere anche delle esigenze, l'esigenza di stare con i propri figli, l'esigenza di suonare uno strumento, l'esigenza di dedicarsi alla cultura, l'esigenza di poter fare l'amore con la propria donna. Cioè se qui stiamo 8 ore, 9 ore, 10 ore a girare la ciambella con uno stress allucinante, perché veramente dopo 10 ore voglio vedere io ad andare a casa a giocare con i bambini, ma che vita è? Qui stiamo rasentando la sopravvivenza, invece noi dobbiamo ottenere quella dignità, la possibilità di realizzare i nostri bisogni, le nostre esigenze per vivere come esseri umani normali. Non è possibile stare in questa situazione. No, fra l'altro volevo fare una parentesi, ha chiamato un lavoratore della British Telecom, dice che sono arrivate già le prime 3 lettere di licenziamento con effetto immediato perché hanno rotto il tavolo di trattative. Insomma, questo c'entra anche per fare capire qual è la condizione reale che vivono oggi i lavoratori in questo paese. Insomma, assolutamente, i politici seduti sulle poltrone non si rendono conto di niente, cioè stanno lì a fare parole, questo politichese che io fino a qualche settimana fa non sapevo nemmeno cosa fosse, e nessuno che si preoccupa di vedere la condizione reale dei cittadini. Cioè qui dovunque ti giri c'è un focolaio di cittadini e lavoratori che si ribellano, c'è una disoccupazione a dei livelli che non lo so dove è arrivata. Non abbiamo la possibilità di far studiare i nostri figli, un padre deve quasi sperare che il figlio non gli dica voglio andare a fare il medico, ma piuttosto deve dire voglio andare a fare il meccanico, con tutto il rispetto per i meccanici. Ragazzi, insomma, qui dobbiamo veramente stare insieme per far cambiare le cose. Io, da che rischiavo il licenziamento, diciamo, perché comunque mi hanno fatto avere un rapporto disciplinare molto pesante, e ieri già si era sparso apparsa a macchia d'olio la notizia che la Quinta Valle sarebbe andata in metro C. I sindacalisti non vedevano l'ora di dire, alcuni per carità, non vedevano l'ora di dire: ah, avete visto, ora lei se ne va. Allora, Micaela aveva già deciso, Micaela sapeva di essere la prima fra gli esclusi di quella lista, tanti non mi conoscevano prima di questa protesta, ma io avevo fatto proprio un, fra virgolette, un referendum su Facebook con i miei amici, perché prima accettavo solo gli amici veri, perché era un problema di incompatibilità con la facoltà di medicina. Quindi quando poi ieri si era scatenato il caos, per me la cosa più naturale del mondo è stata: ragazzi, io in metro C non ci vado. Ora non mi ricordo nemmeno perché siamo arrivati a parlare di questo, però insomma qui dobbiamo veramente pensare alle cose serie e non alle cretinate, dobbiamo stare insieme ed essere uniti. C'è un'altra abbiamo chiamata. Una chiamata, pronto? Pronto? Sì, sei in onda. Buongiorno, sono un collega della grande Michela, sono un collega di Collatina. No, a supporto appunto dell'intervento che è stato fatto poc'anzi dal collega di Tor Vergata, il problema dei straordinari, che loro si sono preoccupati di, anziché prendere provvedimenti per rimpinguare, diciamo, il servizio pubblico, si sono preoccupati semplicemente di fare repressione verso l'autista. E quanto è successo ieri e l'altro ieri, io, ci sono stati dei colleghi che mi hanno mandato delle foto dei capolinea delle vetture che stavano ferme in sosta perché mancava il personale, e la gente in fermata, gli utenti poveracci, praticamente stavano lì ancora, cioè sembrava un sit-in, il peggio del sit-in che abbiamo fatto noi sotto a Campidoglio. Quindi niente, io volevo appunto far presente che questa cosa è stata un disservizio non indifferente, e poi il fatto stesso della Michela, che ieri appunto un collega mi diceva: adesso la Michela va a fare la macchinista, va a prendere il parametro 193, io avrei al posto di Michela l'avrei accettato, perché è un parametro molto più alto, e invece lei l'ha tranquillamente rifiutato, ma comunque. Ok, grazie. No ragazzi, ciao. Veramente, al di là del fatto che io non penso di aver fatto niente di speciale, cioè io ho rinunciato a cose ben più grosse di un parametro 193, e ripeto, io sono molto contenta per il collega che potrà prendere il mio posto, è un'ottima opportunità che l'azienda ci ha dato, ma non c'entra assolutamente niente. Io era incompatibile con l'università, mentre il lavoro di autista è compatibile con l'università, punto. Il discorso degli straordinari è una vergogna, i cittadini, gli utenti devono sapere che l'azienda sta mettendo lei in ginocchio la città per una ripicca nei confronti di autisti che riteneva essere conigli e che invece conigli non sono. Gli autoferrotranvieri sono uniti, ci sono gli autisti, ci sono i macchinisti, ci sono i meccanici, gli operai, ci sono i verificatori, e noi dobbiamo assolutamente essere uniti innanzitutto per far assumere gli interinali. Quello deve essere un diktat, deve essere la cosa più immediata, il primo segnale che il comune e i vertici aziendali devono dare, perché abbiamo un bisogno infinito di personale viaggiante. Subito dopo tutte le altre richieste, ripeto, se ci sono tanti soldi, nessuno vuole togliere il lavoro agli amministrativi. Gli amministrativi possono o essere riqualificati come personale viaggiante o essere assunti da altre società, da altre aziende, insomma. Abbiamo bisogno di vetture nuove, non è possibile. Prima parlavamo dei trenini della Roma Lido, della Roma Viterbo, della Roma Giardinetti, veramente non si può che una vecchietta che abita a Centocelle, per salire su un autobus, su un treno di via Casilina, debba essere aiutata dal macchinista che deve lasciare il posto guida per aiutare la vecchietta a salire, o comunque le persone, quando poi sono disponibili, devono aiutare la vecchietta a salire. Qui il Comune di Roma dovrebbe mettersi in condizioni di essere indipendente, non di dover elemosinare un aiuto che non abbiamo di nostro con i familiari. Veramente, vivendo poi la situazione, queste sono cose che si vedono. Io non capisco perché i sindacalisti non mettono luce su questa situazione, sicuramente perché non vivono il lavoro come i lavoratori normali, per cui noi chiediamo a gran voce che tutti i sindacalisti, tutti gli attivisti ricomincino a girare il quadro. Si può tutelare una categoria solo se si conosce nel profondo la dinamica lavorativa della categoria stessa. Non è possibile che questi sindacalisti lavorino 3 o 4 ore, perché comunque poi sanno di avere dei privilegi il sabato, la domenica a casa, i festivi a casa. Nei treni, tra i macchinisti, questa cosa non succede. Domenica, quando sono andata io, c'erano dei sindacalisti a lavorare. Questa cosa è fondamentale, non è una ripicca. Significa che a quel punto, se fai il sindacato, se fai il sindacalista, lo fai perché hai amore per la tutela del lavoratore, non lo fai perché così te ne stai a casa la domenica con la famiglia. Questo, insomma, lo dimostra tutto il lavoro che noi stiamo facendo, lavorando 6 ore al giorno, perché, cioè, io oggi sono di riposo, ieri ho lavorato, negli ultimi 3 mesi ho lavorato. No, fra l'altro volevo fare una parentesi, insomma, per continuare a discutere del corteo del 20. Insomma, è arrivato un messaggio della ciclofficina di Magliana, dice che parteciperanno, insomma, anche loro al corteo. È importante avere, insomma, il quadro di una complessità di quella che è la questione mobilità a Roma, insomma, che vengano a questo corteo tutti, dalle ciclofficine ai comitati pendolari, ai lavoratori, agli utenti che prendono gli autobus tutti i giorni, perché questo è importante, insomma, fare capire che oggi a Roma c'è una questione di mobilità che è aperta e che va messa sul tavolo dell'amministrazione comunale. Assolutamente. Io prendo un attimo la chiamata e ti lascio la parola, Michela. Ah, ok, così. No, non lo so, insomma, non assolutamente dobbiamo stare insieme agli utenti. Tutto questo lavoro che stiamo facendo è una cosa assolutamente nuova, quella di fare una guerra e all'azienda e però alla politica in generale, tutti insieme, tutti gli autoferrotranviari d'Italia, tutti i cittadini di Roma, e spero che i cittadini, proprio nel loro interesse, si uniscano a noi, sia in questo corteo del 20 dicembre, ma soprattutto in quello del 20 gennaio, che sarà proprio, insomma, molto grande, quello nazionale. Abbiamo la chiamata, pronto? Pronto, buongiorno a tutti. Buongiorno. Io, diciamo così, io faccio il tassista e volevo portare sia la solidarietà a tutti quanti, diciamo così, autisti e macchinisti, che considero, in quanto servizio pubblico, anche io, colleghi. La differenza sta nel mezzo guidato, nelle differenze di turnazioni, nell'amministrativa e nella parte amministrativa, però non avverto, dal punto di vista, diciamo così, prettamente deontologico e di servizio, non avverto differenza. Io sono contento di questo, del fatto che attraverso te, attraverso la trasmissione, appunto, Porta a Porta, avete preso subito atto, vi siete ribellati ad un meccanismo strumentalizzazione delle lotte, delle esigenze sia dei lavoratori che dei cittadini e dell'utenza. E invece noi, nelle nostre battaglie fatte negli anni 90, nel 2000 e via, siamo stati strumentalizzati in tutto e per tutto e ci hanno mostrificato in ogni forma, e sono contento che invece vi siete immediatamente, resi conto dell'inganno di certa parte della stampa, della televisione, e vi siete immediatamente difesi. Per quanto riguarda questo è il bello della diretta, mi metto l'auricolare e sento dove vanno i signori. Scusate un secondo. Pronto? Sta in servizio, sì. Sì. Pronto? Sì, sei in onda. Eccomi, questo ripeto, è il bello della diretta, e volevo dire che sostanzialmente io il 20 ci sarò, assolutamente. Poi, se sono solo io, se diventiamo una rappresentanza, questo, devo dire la verità, ha una relativa importanza. Io sono convinto e so proprio direttamente che diciamo così, i tassisti appoggiano questa battaglia, ne sono consapevoli, ed è una battaglia anche nostra. Questo è quello che volevo dire io. E poi il fatto che dal punto di vista della salute, come lavoratori, a noi ci hanno fatto e ci stanno facendo sostanzialmente di tutto, ci stanno cambiando i turni in base a una flessibilità e via, ci hanno cambiato da 8 ore, sostanzialmente ce la stanno cambiando a 9 sicuro, e la porteranno a 10 ore lavorative, prendendo la flessibilità l'ora prima e l'ora dopo l'inizio del servizio, la fine del servizio. Praticamente noi con la nostra modalità di lavoro, se il turno comincia alle 6, il turno che sto facendo io comincia alle 6, io alle 5 stavo già in piazza, perché la flessibilità in un comparto come il nostro diventa un settore, diventa obbligatorio, insomma. E questo va in documento proprio della salute e del nostra, ma anche diciamo così, attenzione alla guida, che conoscete e conosciamo tutti bene, insomma. Okay. Questo è una parte. E poi la parte legata appunto alle condizioni di salute, siamo tutti ammalati, ma non ci viene riconosciuto. E se voi forse avete la speranza, l'aspettativa di fare magari una causa di servizio, noi proprio ci hanno proprio detto, come dire, non ci provate nemmeno, perché tanto non vi riconosciamo assolutamente niente, né come malattia professionale né come contesto legato al servizio, alla difficoltà di queste. Comunque, forza e coraggio, ci siamo anche noi. Grazie. Ciao. Diciamo, è bello ed è importante ricevere, insomma, in questa trasmissione di oggi è diverse, diciamo, sfaccettature di quello che è la questione dei trasporti a Roma, della mobilità in generale. È importante riprendere una questione politica dell'ultimo intervento, sui trasporti, quello di quello che è l'ideologia politica che cerca di andare a giustificare le privatizzazioni e il bilancio, diciamo, il rosso dell'azienda, insomma, porta a porta, mezzo giornale, insomma, eccetera, sì, cercano di dire che il bilancio in rosso è colpa delle inefficienze dei lavoratori e del mancato pagamento dei biglietti, quando sappiamo che sono 3-4 i punti fondamentali. Insomma, il fatto che si sono fregate 70 milioni l'anno stampando i biglietti false dentro le tipografie dell'ATAC, parlando? Cioè, il fatto che comunque ci stanno 850 persone entrate con parentopoli, il fatto che si perdono 14 miliardi milioni l'anno per gli stipendi d'oro aziendali, e il fatto che comunque a livello nazionale si tagliano i fondi pubblici, i fondi pubblici per i trasporti. Questi sono i veri problemi che oggi abbiamo. No, ma infatti io voglio dire, io parlo sempre con i miei colleghi nel gruppo. Quando ieri è arrivata la chiamata di Piazza Pulita, proprio ho rifiutato, nel senso che la TV ci strumentalizza. A Porta è venuto fuori, come, nonostante io sono, alla fine a me non è dispiaciuto molto come si è andato Porta a Porta, perché anche se volevano farmi parlare di università e di un popolo di cittadini non onesti che non pagano il biglietto, io ho cercato con il mio solito modo di fare abbastanza saccente, sono riuscita a far dire a tutti e tre i politici che comunque di ATAC non sapevano niente, ed è venuta fuori l'alleanza destra-sinistra, che vedono nella privatizzazione la soluzione di tutti i mali. Io non so se prima o poi torneremo in televisione, questo lo decideremo insieme. Il discorso è che dobbiamo decidere noi, dobbiamo sapere chi saranno gli ospiti, dobbiamo sapere la tempistica, dobbiamo sapere esattamente le domande che ci verranno fatte per prepararle bene. Ormai ce lo possiamo permettere, insomma, possiamo assolutamente rifiutare. Io vedo come nelle radio c'è una voglia di far cambiare le cose, in televisione c'è solamente voglia di fare audience, cioè sono arrivate chiamate da Giletti, da Rita Dalla Chiesa, insomma, che non so nemmeno, non ricordo nemmeno foro, non ricordo nemmeno, perché appunto loro vedono il personaggio. A sì, noi infatti non interessa essere un personaggio, a noi non interessa fare audience, a noi interessa risolvere i problemi degli autoferrotranvieri. Abbiamo una chiamata, pronto? Salve, buongiorno. Buongiorno. Sono Francesca, una collega appunto di Micaela, da Tor Vergata, e sono 7 anni e mezzo che lavoro qui in ATAC, quindi come autista, e ringrazio Michela insomma di tutto quello che sta facendo, insomma della visibilità che ci sta dando, del fatto appunto che parla delle nostre problematiche. Io appunto, essendo stata assunta 7 anni e mezzo fa, sono una di quelle che ha avuto 3 anni di apprendistato nonostante una patente professionale. Prima di farmi firmare un contratto a tempo indeterminato mi è stata fatta firmare una lettera in cui rinunciavo a eventuali cause legali, e questo ovviamente i sindacati ne erano consapevoli, ma nessuno si è fatto carico della nostra situazione. Pago tra virgolette un po' anche gli scotti del fatto che, essendo tra gli ultimi assunti, quando vai a chiedere qualcosa come matricola sei la più giovane, quindi tutto sommato sei all'ultimo insomma della fila. Mamma quindi mia. Va bene anche questa. E quindi riguardo anche alla perdita della vita sociale, tutto sommato potremmo aprire un'enorme parentesi, in quanto io in questo momento sono in servizio e mi scuso per i rumori. Perdita quindi di vita sociale, in quanto tutto viene a saperlo sempre all'ultimo minuto, certo. Ovviamente in virtù del servizio, quindi a favore del servizio. E diciamo appunto, quindi ringrazio ancora Michela per tutto quello che sta facendo, insomma, per questa visibilità, appunto, ripeto. L'unica cosa in parte che mi trova un po' contraria, qui lo devo dire perché purtroppo volevo quasi quasi anche non chiamare, però una cosa la devo dire: io sono moglie di un ex sindacalista. Quindi un sindacalista dimissionario, penso che non da moglie, ma quanto da iscritta e da lavoratrice, credo che comunque abbia svolto un lavoro giusto, pulito, chiaro, limpido. E quello che voglio dire è che appunto nel mio caso mio marito l'ho fatto tra virgolette dimettere io, e lo dico apertamente e pubblicamente anche se i miei colleghi di Tor Vergata lo sanno, per il semplice motivo che non è così tutt'oro quello che sembra che luccica, cioè nel senso che 5 ore che sono poi i turni, 4-5 ore non 3-4 come viene detto, e il sabato si lavora, perché se uno lavora nel corretto di solito è così. Diciamo le problematiche in sé di chi fa il sindacalista, se lo fa come si deve, è che ti porti diciamo appunto privata, ti porti tutto il resto. E ti porti l'ansia, ti porti i problemi dei colleghi. Sì, sì, no. Finisce, cioè, e ti rispondo assolutamente. Io sì, sono. Sì, ti porti tanto, io lo dico. Io mio marito l'ho fatto dimettere io, perché essendo appunto una collega, dico che per me l'ATAC era diventato un incubo. Cioè, le problematiche, cioè quelle comunque ti chiamano a casa oltre o in oltranza, quindi non è così tutto quello. Io credo che quello che bisogna chiedere ai sindacalisti non è il fatto in sé di girare il quadro, di avere un orario, perché io credo oggi come oggi che nessuno, perché non, il sindacalista in sé non prende soldi per fare l'attività sindacale, quindi quello che fa lo fa per pura passione e comunque nel tempo suo, perché se Michela sa come funziona, nel senso perlomeno un accordo che c'è stato per quanto riguarda i sindacalisti, si tratta di appunto che l'azienda rinunciava ad un'ora lavorativa, diciamo così, e il lavoratore ci rimetteva un'ora del suo, quindi se un turno d'orario per ipotesi appunto è diciamo 6 ore, un'ora ce la rimette il collega, un'ora ce la rimette l'azienda, dovrebbero essere 2 ore. Allora se il sindacalista fondamentalmente stacca alle 10 di mattina, dovrebbe stare per di norma fino a mezzogiorno e poi andarsene, mentre invece di solito rimangono fino all'una. Allora forse dovrebbe essere richiesto a queste persone. Okay, ti rispondo, grazie. Okay, intanto grazie per la chiamata, ciao. No, grazie a voi. Allora sicuramente no, grazie per i ringraziamenti, io credo di non fare niente di speciale. Allora io non ce l'ho minimamente con la singola persona, con il singolo sindacalista. Io vi dico che stamattina in rimessa, quando sono andata a consegnare la rinuncia alla al corso in metro C, veramente c'era un sindacalista che io adoro umanamente, per come svolge il suo lavoro ci siamo abbracciati, mi veniva da piangere. Quindi assolutamente io sono figlia di un ex sindacalista, io assolutamente sono per il sindacato. Quello che dici tu, allora, il fatto delle 5 ore non è sempre così, perché li ho visti io, i turni dei sindacalisti sono anche di 3 ore e mezzo, diciamo che una media 4, 4 e mezzo, ma insomma, ma se il sindacalista sta lì rimessa a perdere il suo tempo per cambiare le mattine o per andare a mangiare in mensa, francamente il sindacalista non serve a niente. Ci sono sindacalisti che fanno questo tipo di scelta solo per avere la domenica a casa e i festivi con le famiglie. Quello che invece ti dico, i sindacalisti seri, come sicuramente era tuo marito, ora al di là dell'accordo lì c'era, quindi comunque lui, nonostante avesse le domeniche a casa e i festivi a casa, magari si impegnava totalmente. In generale, però, in linea di massima, non fanno sindacato per amore del lavoratore. L'abbiamo visto, perché guarda dove ci hanno ridotti, cioè aziendalisti a morire, perché comunque avevano tutto l'interesse di fare degli accordi. Io proprio mi ricordo quando sono venuta agli Tor Vergata da voi, che proprio me li sono guardati dicendo loro che cosa facevate, quanto vino attraversava le vostre vie digestive quando avete firmato accordi che hanno calpestato diritti, dignità, bisogni ed esigenze dei lavoratori. Quindi assolutamente io ho visto nelle metro, nei trenini, che quando il sindacalista deve lavorare come il lavoratore, per cui deve fare il turno di 6 ore e 20, cioè loro perché hanno turni anche più corti? Perché combattono per i turni più corti, perché lì ci deve essere un'attenzione concentrata. Noi non si può lavorare 6 ore e 20, non si può passare alle 6 ore e 40, non possiamo arrivare come la Tevere TPL e lavorare 8 ore, 8 ore e mezza. Qui ci deve stare la sicurezza. È inutile che qualche utente mi dice: ho capito, ma io ne lavoro 10. Avete ragione, cittadini, sicuramente dovrebbero abbassare gli orari anche voi, ma state dietro una scrivania. Cioè, se voi vi sbagliate, fare un errore ortografico, un errore grammaticale, se noi ci sbagliamo. Io ricordo quando mi dicevano: ogni volta che sali sull'autobus guarda lo specchietto retrovisore, ogni tuo errore c'è una famiglia che piange. C'è una cosa diversa, è come i medici, come quando io al policlinico parlo con i chirurghi, e perché qui ormai sembra che Micaela possa risolvere il mondo, quando non è assolutamente vero, e mi dicono: assolutamente ci hanno tolto i chirurghi, dobbiamo fare 20 notti al mese. Ma il paziente che viene curato dal chirurgo, che viene operato dal chirurgo, che è stanco, è a rischio, è tutto sbagliato. Quindi questo era il mio pensiero. Poi che ci siano sindacalisti, mamma mia, a Firenze sono venuti dei sindacalisti, io lo so che tanti sindacalisti lo fanno per amore della protesta, ma non sono tutti così, e a rivelarlo è la realtà delle cose. È il fatto che nella lista quella incriminata con i super minimi ci sono anche alcuni di loro. Quindi come puoi poter fare il bene del lavoratore se aspetti solo una promozione? Per me è una, come si dice, è un'opposizione in termini. Abbiamo una chiamata, pronto? Pronto, buongiorno Sergio, un collega di Magliana, ci siamo sentiti anche ieri. Ciao. Niente, io confermo tutto ciò che dice Michela per quanto riguarda le nostre problematiche, che tra l'altro i nostri sindacalisti non ci rappresentano più, che ci sono questi turni straordinari perché sicuramente l'azienda non vuole assumere, e per questo spero che al più presto i nostri interinali vengano assunti, in modo sia a loro che a noi diano la possibilità a loro di avere un lavoro e noi di avere un recupero psicofisico, psicologico, psicotutto, perché veramente ieri ha detto era il terzo giorno che facevo una domanda di ferie e mi veniva rifiutata, e oggi dico è il quarto giorno che presento una domanda di congedo e mi viene rifiutata. Forza Michela, forza tutti, forza mi dispiace, ragazzi, che domani tutti. Lunedì forse al 90% non ci sarò per problemi familiari. Te la potrei vedere sia in diretta streaming che registrata, quindi sì, insomma sì, non c'è tutto. Un abbraccio a tutti, stavo col collega Giancarlo che sto cercando di convincere, che lui dubita su alcune cose, ma siamo tu lo sai che cosa giusta. gli devi dire dubitare è assolutamente legittimo, gli devi dire che dubitare è assolutamente legittimo. Mi venisse a trovare sull'autobus, ci facciamo una chiacchierata, ci prendiamo un caffè e parliamo di tutto quello che vuole. Certo, ma già gliel'ho detto, in bocca al lupo e ciao, buona proseguimento. Ciao. un'ultima cosa, insomma, che era importante, la questione interinali, uno dei punti della piattaforma, insomma, con cui scendiamo in piazza, ricordiamo sempre il 20 dicembre, corteo dal Colosseo al Campidoglio sulla questione ATAC e sulla questione mobilità in generale, appunto quello degli interinali. Ti volevo invitare a farci un punto su questa cosa qua. Ricordiamo che anche le lavoratrici della Trambus parteciperanno anche al corteo del 20. Un punto che ti devo dire, che sono comunque persone squisite, che sono persone da giovanotti, io li conosco personalmente, a papà di 45 anni, 48 anni con due bambini, che veramente fanno di tutto di più, perché poi fanno lavoretti extra pur di portare i soldi a casa. A me si stringe il cuore ogni volta che parlo con loro, veramente. Io non lo so se ci riusciremo, ma se mai riusciremo in questa impresa sarà una cosa che mi riempirà di gioia, perché meritano, sanno lavorare, sanno stare sui mezzi, sono strasfruttati perché non gli facevano fare gli straordinari. Ora, insomma, avrò modo di raccontare la loro situazione, soprattutto nella rubrica che mi è stata affidata. Sono assolutamente dalla loro parte, devono essere assunti nel più breve tempo possibile. Noi abbiamo una carenza di 1000 unità sul personale viaggiante, sono 115, sanno guidare, sono pronti a fare il lavoro nel miglior modo possibile. Li hanno messi in mezzo al traffico dopo 3 giorni di affiancamento. Ricordiamo che la sottoscritta e i suoi colleghi invece hanno avuto un paio di settimane prima di essere buttati nel mare magnum della città. Insomma, assolutamente, chi di dovere si metta una mano sulla coscienza e assuma questi ragazzi. Allora, prima di dare la chiamata, insomma, è chiaro che le assunzioni in ATAC sono uno dei primi punti, insomma, della piattaforma, e naturalmente gli interinali che hanno detto, insomma, che parteciperanno anche loro al corteo del 20 devono appunto essere assunti, perché il problema delle assunzioni è un problema principale per poter permettere un servizio migliore. Io do la chiamata, ricordando che è l'ultima, insomma, chiamata che prendiamo, già sono le ore 13:05, insomma ci avviamo verso la chiusura. Do l'ultima parola all'ultima chiamata. Pronto? Sì, ciao, buongiorno. Dunque, io non sono un collega di Micaela e insomma, niente, mi sono sentito un attimo di intervenire nella questione in merito, anche perché ho sentito parlare di trasporto pubblico e di dipendenti ATAC. Innanzitutto io credo che sia un'accezione sbagliata quella della definizione di trasporto pubblico, perché questo è un trasporto collettivo e non trasporto pubblico, perché sappiamo benissimo, no? Seguendo tutte le trasmissioni, io ho sentito Aurigemma chiedere per l'ennesima volta i soldi del governo per finanziare questo mostro meccanico che è il trasporto collettivo romano. E inoltre, in merito anche all'intervento della collega prima, quella che c'ha il marito ex sindacalista, anche sottostare a questi ricatti, come firmare una lettera del genere in cambio di un contratto a tempo indeterminato, è un sintomo di sudditanza, no? Per cui, ecco, se noi riuscissimo a vedere la cosa non come corporativa, perché qui c'è una sorta di corporativismo dei dipendenti dell'ATAC che richiedono la loro tutela, l'assunzione degli interinali in vista di turni meno massacranti, eccetera, ma se comunque continuiamo a chiedere la giustizia soltanto per la classe alla quale apparteniamo, credo che ci sia una sorta di tentativo di cammino stroncato già dall'inizio, no? Perché sappiamo benissimo che viviamo in un paese ridotto al lumicino, per cui niente, questo volevo dire. Okay, sostanzialmente grazie. Di continuare una lotta che è giusta, per carità, assolutamente, ma che però debba coinvolgere un po' tutti quanti, cioè deve essere una lotta collettiva di ogni classe lavoratrice, ogni classe sociale, per difenderci reciprocamente. Per cui è inutile che portiamo avanti come al solito problematiche disgregate da quella che è la realtà collettiva del paese, e poi prendiamo atto che questo non è un servizio pubblico, questo è un servizio collettivo in mano a privati, anche se è travestito da partecipata, eccetera eccetera, questo è un servizio collettivo, trasporto collettivo, per cui non possiamo pretendere un servizio pubblico da una società privata, da una gestione privata. È tutto lì. Allora prima vediamo qual è il nocciolo della questione e dopo cerchiamo di canalizzare la lotta nella direzione giusta, perché così comunque è disgregante la cosa, perché ci sarà sempre quello che firma la letterina in cambio del posto a tempo indeterminato, ma che comunque è ricattabile e che comunque fa il gioco del padrone, cioè tutto lì. Ok, grazie. Ciao. No, infatti comunque ricordiamo un punto fondamentale, l'abbiamo già ripetuto ed è meglio ripeterlo ancora, la protesta, insomma la mobilitazione sulla questione del trasporto è una stiamo cercando appunto di costruirla in maniera collettiva con non solo con i lavoratori e con tutte le categorie interne, insomma all'ADAC, che già sono tante, ma la stiamo cercando di costruire insieme agli utenti, insomma, che sono a stavolta anche esseri lavoratori che prendono, certo, il trasporto pubblico per andare a lavorare, insomma. No, ma poi insomma penso che questo signore, per carità, avrà sentito ora questa trasmissione, magari non ha sentito tutte quelle che abbiamo fatto, ma noi stiamo facendo una lotta, sì, sicuramente per le problematiche ATAC, ma coinvolgiamo i cittadini di Roma e d'Italia, insomma, per migliorare le loro condizioni. I vigili hanno le loro problematiche, si sono uniti alla nostra protesta, insomma assolutamente noi non abbiamo canalizzato la lotta in un'unica direzione, stiamo cercando di risolvere delle problematiche, di mettere almeno il fascio di luce polarizzata su una problematica importante che riguarda soprattutto le categorie più deboli, quindi insomma lo facciamo con il cuore, siamo aperti a qualsiasi tipo di consiglio, di contatto. Sicuramente io chiedo scusa, io vengo contattata davvero da tante persone, mi aveva chiamato l'AMA, mi avevano chiamate vigili, avevo detto stupidamente fate le vostre proteste, poi magari se ne può parlare, dobbiamo pensare agli autoferrotrambieri, però i vigili carinamente non si sono arresi, ci hanno chiamato dicendoci voi non dovete fare niente, dovete solo dirci quando protestate, noi protesteremo con voi. Ricordo ai colleghi che avevano paura, insomma, di ricevere delle multe perché i mezzi non sono idonei, e Gabriele Di Bella sarà alla nostra assemblea lunedì, ci farà capire come è assolutamente possibile fermare un mezzo pubblico senza dover coinvolgere l'autista che è il responsabile. Quindi l'ho fatto venire proprio per farvi stare più tranquilli, qualsiasi dubbio voi abbiate, qualsiasi tipo di confronto dialettico voi vogliate fare con me è possibile, mi potete contattare, mi potete venire a trovare sull'autobus, a differenza dei vertici aziendali che si defilano elegantemente, Michela e gli autoferrotrambieri sono qui. No, fra l'altro appunto le reti sociali, dell'acqua, dell'energia, dei rifiuti, della casa, la scuola, della sanità, insomma tutti quelli che quotidianamente prendono una discriminante del pubblico contro il privato, insomma di una discriminante per la salvaguardia e l'avanzamento dei propri diritti, sono i benvenuti, insomma sono gli interlocutori privilegiati in questa città per poter cominciare a una grande battaglia, insomma, per il benessere collettivo non solo del trasporto pubblico, ma più anche in generale per mettere uno stop a quello che una politica, insomma, generale che sta portando non solo l'ATAC ma tutte le grandi aziende, diciamo, ex pubbliche o parapubbliche, insomma, alla macelleria sociale. Noi andiamo in chiusura, io ricordo solamente i punti del corteo del 20 di dicembre, i punti sono questi: no alla privatizzazione del servizio pubblico, riqualificazione e potenziamento del servizio offerto alla cittadinanza, 1000 assunzioni subito per un servizio che non si regga sugli straordinari di chi lavora, stabilizzazione dei lavoratori interinali chiamati solo nei periodi di maggiore necessità, pagamento di tutti gli arretrati agli autoferrotranvieri, razionalizzazione delle risorse aziendali, la riduzione delle posizioni amministrative e dei benefit ad personam e l'azzeramento degli attuali vertici aziendali, ricollocazione delle figure improduttive in posizioni operative così da colmare la carenza di personale attivo, revisione delle procedure di appalto per una riduzione degli sprechi e una maggiore trasparenza, accesso alla mobilità per tutti, differenziazione dei titoli di viaggio, un percorso di agevolazione meno burocratizzato e accesso gratuito per gli studenti anche non residenti, i disoccupati e i precari, eliminando le tessere di libera circolazione elargite come bonus elettorali. Insomma, questi sono i punti, abbiamo cercato di mettere tutti i punti che riguardano il trasporto pubblico a Roma per cominciare una vertenza diciamo cittadina in questa città il 20 dicembre alle ore 17 dal Colosseo al Campidoglio, per poi arrivare insomma in prospettiva al 20 di gennaio, quando tutti gli autoferrotranvieri d'Italia scenderanno in assolutamente in... La rivoluzione si fa nelle piazze con la gente, non nei salotti televisivi. Senti, allora il 16 invece ricordiamo appunto l'assemblea, via Tortona numero 3 tra Re di Roma e Ponte Lungo, Teatro Don Orione, alle ore 15:30. Vi aspettiamo numerosi, ci c'è saranno anche delegati. La diretta streaming, abbiamo già il sito eventuale o lo sì, diamo? Me l'ha mandato il collega Mauro, lo stavo vedendo proprio adesso, solo che non ci capisco niente, non mi si è aperto, appena lo avremo lo leggiamo, metteremo. Ok. Appena abbiamo il sito streaming, io insomma, sono un neoanalfabeta rispetto alla tecnologia. Grazie a voi, grazie a tutti, buona giornata e buona domenica. Ok, grazie anche da parte mia, ore 13 e 13 minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9. Noi continueremo a dare spazio alle lotte di questa città, continueremo a dare spazio alle lotte degli autoferrotranvieri di questa città e degli utenti del servizio di trasporto pubblico. Ricordiamo ultimamente che è arrivata una chiamata prima, insomma c'è stata un'occupazione di un nuovo stabile, un'occupazione fatta da gruppi di sole donne, via Ostiense 137, alle ore 17 di oggi ci sarà un'assemblea pubblica per presentare la nuova occupazione, benvenuta insomma in questa città. Ciao a tutti e ci sentiamo prossimamente con la mia voce, e invece rimanete in ascolto per la programmazione quotidiana di Radio Onda Rossa.